Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ultimo sound check dell'anno qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera ai miei compagni di avventure che ringrazio con l'affetto e la stima di sempre, l'ingegnere del suono Riccardo Bomarsi. Buonasera, ci sei? Buonasera. E naturalmente l'impeccabile Francesco Tromba, vestito benissimo, addirittura ti sei messo una papillon questa sera. Capodanno quindi. Bene, Capodanno ceneremo insieme, anzi io mi voglio scusare con voi perché di solito cucino io a Capodanno quando sono a casa, però visto che coincide proprio anche la puntata del nostro soundcheck, non avendo avuto il tempo di preparare, mi sono concesso il lusso di far venire direttamente dalla mia regione, dalla Puglia, una delle mie chef preferite, la signora Anna. Eccola qua. Allora, che abbiamo preparato? Ho fatto le cose che mi hai chiesto. Che cosa ti ho chiesto? No, tanto per presentare al maestro Bomarsi e al dottor Tromba, che cosa abbiamo preparato, che lo vogliono sapere? Gli scagliozzi sono proprio una cosa tipica pugliese, della polenta fritta. Buona. Le cime di rape con le orecchiette. E con un po' di peperoncino ci metti sopra. E il peperoncino buonissimo. Ce lo metti su. Come l'abbiamo? E come le volevi tu? Tu me l'hai detto. Io l'ho detto, Anna. Volevo fare proprio la cena pugliese. Questo come gli antipasti, avevo preso tutti quegli affettati, no, abbiamo fatto venire. Le lenticchie con cotechino. Poi volevo sapere, suo marito ha portato pure le mozzarelle? Con la burrata? La burrata ci sta. Ecco, sta la burrata. E poi sono pure gli affettati. E gli affettati. Ecco. Che devo andare. Che dovete bere. Che dobbiamo bere. Dobbiamo bere tutto quello che c'è. intanto quello. No, lo spumante se vuole, io adesso non è, se ha tempo di farlo, ce lo può portare un calice. Noi stiamo qua con la cuffia, quindi non mi posso muovere. No, prima un po' di prosecco. Prosecco italiano e poi apriamo il bianco e andiamo col rosso dopo, no? Ok, va benissimo. È Capodanno, se non beviamo a Capodanno, Anna, se lo può bere pure lei con noi un bicchiere. Allora vado a prendere. Andiamo con la puntata, Tromba. Allora, complimenti Anna, ci sono degli odori molto interessanti. È molto interessante, poi dobbiamo aprire tutto perché voi lo sapete che qua deve restare un odore proprio di vaniglia, no? Nello studio. Allora, direi di andare finalmente alla musica. Mi sembrava giusto chiudere questa stagione del nostro soundcheck con un suono particolarmente funk, tipicamente funk anni 70. E qualche giorno fa mi è capitato di vedere in televisione un concerto esaltante, bellissimo, il concerto di Bruno Mars all'Apollo Theater di New York, lì a Harlem, concerto che inizia con una performance sul tetto dell'Apollo Theater. L'hai visto, Francesco? No, non l'ho ancora visto, però lui è un grande. Lui veramente è il numero uno, lo sì. Devo dire, anche perché il concerto è senza fronzoli, cioè non è lo spettacolo tipico della pop star o della star dell'R&B, musicisti fantastici, cantanti meravigliosi, e lui è un performer strepitoso che tra l'altro suona anche benissimo batteria e chitarra. Sì, lui sa fare in realtà anche la pop star in alcuni casi. Lui è una pop star, ma lo spettacolo va al sodo, è super funk, ed è super funk questo brano che trovate naturalmente nell'album di successo 24K, no? Sì. Ecco, allora Bruno Mars con Perm al soundcheck di Radio 24. Sì, arrivano gli odori della cucina del Groove Master Studio, affidata oggi alla signora Anna che sta preparando benissimo. Hai visto anche che bella tavola ha preparato? Sì, infatti. Proprio tipica da Natale, io la ringrazio tantissimo. Ma potremmo invitarla tutti i weekend? Perché solo a Capodanno? No, tutti i weekend è complicato, anche perché la signora è nostra ospite oggi, ma poi c'ha il suo bel da fare a casa sua, perché è pugliese e arriva direttamente da Cerignola. Portiamola qui, facciamola trasferire. Facciamola trasferire, non è una buona idea. Dunque, parliamo di funk, ascoltiamo funk. Ultimo giorno dell'anno, sentiamo un po' di groove. Iniziamo cose a prepararci per la serata. Qual è uno dei musicisti più funk e groovosi del globo terrestre? Ancora oggi alla sua bella età, vivente e attivo? chi? Non mi viene in mente nessun nome. Bootsy, Bootsy, ah. Mr. Bootsy Collins, madame e messie, questo signore che ha militato nella super band di James Brown, leader e anche lui dei Funkadelic, Parliament Funkadelic. Mamma mia quanta musica fortissimo ha fatto. Bootsy Collins è tornato con un nuovo album super funk. Sentite questo brano, si intitola Come Back. Soundcheck. Il suono della musica. Di Gigi Telesco. È un caposcuola, Hemp Fiddler. Dalla sua scuola sono venuti fuori signori come anche Jay Dilla collaborava con Hemp Fiddler, no? Sì, sì, anche Questlove era nella sua cerchia, diciamo. Eh sì, meraviglioso, nuovo album per lui, molto divertente, perfetto per questa ultima giornata, per questo ultimo soundcheck di questa stagione. Se sente un po' di rilassatezza. Sì, vabbè, l'ultimo dell'anno. Gli amici ci scuseranno perché sono anche abbastanza distratti, perché vengono fuori dei profumi dalla cucina che stanno inebriando qui tutti i presenti nel Groove Master Studio. E quindi ringrazio ancora una volta la signora Anna. Le piace questa musica che stiamo suonando, signora? Bella. Qual è la musica che ascolta lei a casa? A me piace Albano. Venga un po' più vicino, signora. Scusi, Chi? Albano. Albano perché è pugliese, anche lui. Perché le canzoni sono belle. Di Albano, sì. E poi? E mi piace Albano, Adrian Celentano, fanno stare bene. Fanno stare bene. Sì. Ma ha sentito invece il groove del funk di Hemp Fiddler come viene su? Sì. Non è signora, molto convinta, no, la signora. No, sto parlando, signora, del funk. È un genere di musica, signora Anna, non è una parolaccia. Il funk, proprio si chiama così. Ah, il funk, quello. Ha sentito la batteria, che ritmo portentoso che aveva? Sì. Bello. È bello, no? Questo si balla, quello che si balla alle feste, no? No. Lei non balla alle feste, queste cose qua? Come mio marito balla. Ah, con suo marito. Perché non si ferma a cena con noi stasera? No, grazie. Che devo andare alla... le figlie, le cose, bambini. Devo vabbè, possono venire pure loro. No. Pure bambini no, tromba. Vabbè. Scusa. Stiamo tranquilli. Per cena, no. Andiamo alla musica. Io farei una cosa. Ha mai fatto radio lei? No. Allora faccio una cosa. Venga qui. Bomarzi, possiamo dare una cuffia alla signora Anna? Vediamo se si sente. Ecco, faccia questa esperienza, che è la prima volta che uno si sente in cuffia. Com'è? Madonna. Si sente? Pino! Chi è Pino? Mio marito! Senta signora, faccio una cosa, annunci lei questo brano, questo signore si chiama, deve dire così, a Radio 24, Hemp Fiddler, a Radio 24, Hemp Fiddler. Più facile. Ecco, è più facile di così. A Radio 24. Senza gridare. A Radio 24, Hemp Fiddler. Hemp Fiddler. Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. Con la partecipazione di Michael Bland, Hero Town, il sound originalissimo dei californiani Wolfpack, al Soundcheck Radio 24, anche per loro fatica recente, e chiudiamo proprio questa ultima puntata, questa stagione 2017, il nostro programma qui su Radio 24 con questa band originalissima che ci fa impazzire perché sono solari, divertenti e soprattutto si divertono proprio loro nel farla la musica. Purtroppo non hanno intenzione di venire in Italia a breve, ci ho parlato con il manager per chiedergli informazioni se per caso c'erano dei concerti in vista per la prossima estate. Ma magari. Che gliene frega a loro, stanno in California, stanno così bene. No, però in Europa ci vengono, in Italia. Ah sì, Solo in Italia no. Per quale motivo? Perché sono razzisti nei confronti degli italiani, Non lo so, forse diciamo è un mercato che per il momento non gli interessa, non lo so. Vabbè, anche se dispiaciuto per questa notizia, sono invece di praticamente di mettermi a tavola adesso con tutto questo ben di Dio. Vorrei chiedere, intanto ringrazio e saluto la signora Anna per il bellissimo lavoro che ha fatto, praticamente è qui da noi a che ora è arrivata? Alle 4? Alle 4 di pomeriggio. Dalle 4 che sta cucinando, però è tutto tutto pronto, no? Dobbiamo soltanto calare le orecchiette. Pure calde sgagliozze. Comunque. Gli sgagliozzi va bene, sono caldi, ma le orecchiette le dobbiamo calare adesso. Ma perché... quando me lo dici tu, mettere nell'acqua? Noi siamo praticamente pronti. A che ora vogliamo? Fra un po', no? Sì. No, se no è presto, è ancora presto. Dobbiamo mangiare. Lei a che ora deve andare via? Ma io volevo... appena me lo dici tu me ne vado e finisco. Allora facciamo le annunciare un altro brano dei Wolfpack. Non è... no vabbè, facciamo è una facciamo... bella voce la signora. Facciamo gli auguri alla signora Anna. Tanti auguri, è stata gentilissima. Grazie. Possiamo ricapitolare soltanto che cosa abbiamo a tavola, quindi iniziamo a mangiare cosa? Allora ci sono gli antipasti, gli affettati, la mozzarella, la burrata, e poi ci sono i frutti di mare, non so se ti piace. Sì, pure. Frutti di mare qualcosa mi piace, sono un po' a attento tantissimo. A te sì, figurati, sì, pure crudo. E poi un panino, prosecco, una cosa bella. Panino? No, lo champagnino. Ah, lo champagnino. Lo champagnino, c'è lo champagnino e poi... E poi cominciate le orecchiette e il rap, quelle ci quello mi fa impazzire. La verità, a me piaceva anche la cosa che facciamo noi a Foggia, bene, meglio che a Bari e a Cerignola, che sono il purè di fave e cicoria, quello mi piace. E non ho avuto tempo. Vabbè, la prossima volta lo facciamo, tanto ci rivediamo, no? Sì, e poi sarà il cotechino. Con le lenticchie. E il cotechino con le lenticchie ci vuole. Tu sei vegetariano, Tromba? Assolutamente è no. Vegano? No. È un po' di cotechino. Sono non fa male, non fa male, non fa male a nessuno, senza esagerare con le lenticchie. Allora, amici, auguri, buon anno a tutto. Festeggiate, divertitevi con prudenza, però. Assolutamente. Tocca dirlo. Meglio prendere i taxi. E fatemi una cortesia, ascoltate buona musica. Ascoltate buona musica, perché la buona musica vi rimette a posto con la coscienza. Questa non è male, vero sì. Signora Anna? Come no. Come no, grazie alla signora Anna, grazie al nostro super Riccardo Bomarzi, auguri, buon anno, auguri e buon anno a Francesco Tromba, a tutti voi miei fedelissimi, lo posso dire, è bello, fedelissimi, sì, amici appassionati di musica di Radio 24, ci risentiamo la prossima settimana, sempre con l'anno nuovo, quindi sabato prossimo 19:15, sempre e soltanto sulla nostra radio preferita. Qual è, signora Anna? È la radio che fai tu. Radio 24. Grandiosa.